In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Buongiorno a tutti da Francesco Puglisi, oggi è l'11 novembre 2011. Cosa succederà alle ore 11:11? Oggi è San Martino e ogni mosto diventa vino, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Martino o Martina. Io veramente dovrei fare tanti auguri a tutte quelle persone che conosco che si chiamano veramente Martina, sono in tante. Come ogni venerdì avremo tanti ospiti, da Giulio Giallombardo che ci parlerà del fine settimana, da Michele Sarica con il nostro classico appuntamento per quanto riguarda la poesia, poi avremo il nostro buon chef Alessandro Orefice che ci consiglierà su che cosa preparare oggi, e poi Lucis in fundo, non per ultimo perché è una cosa importantissima, il nostro buon padre Angiolino che parlerà della liturgia odierna. Continuiamo, veramente partiamo subito con la mistica, già l'ho sentita in sottofondo, loro sono i Goldplay con Paradise. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Vendersi appartamento 4 vani, metri quadri 120, in pienissimo centro storico a Palermo, zona Piazza Pretoria, 4 canti, primo piano, con lungo balcone su Corso Vittorio Emanuele, in un palazzo d'epoca, totalmente da ristrutturare, rientrante comunque nei piani di finanziamento regionale pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia numero 14 del 1 aprile 2011. Chi fosse interessato può chiamare al 338 21 19 112. Ancora musica, salutiamo Martina che oggi fra altre cose fa l'onomastico, ma ci ha richiesto questa canzone di Noel Gallagher che noi prontissimi più che mai abbiamo già inserito in scaletta. Cos'è la scaletta? Slalom. Flashback. Early morning, late afternoon, or at midnight, always

dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away. Ricordi ci sono insieme a questa canzone dei Boston che questa mattina abbiamo veramente rispolverato, intitolata proprio More Than a Feeling. E Vittorio Sgarbi è stato decretato vincitore del referendum indetto dalla rivista Sapori d'Italia e dall'Accademia del Peperoncino perché ha vinto, diciamo, per il suo carattere, il temperamento e la personalità, il premio Peperoncino d'Italia 2011. Il concorso è nato da un'idea di Cino Tortorella, proprio fondatore della rivista Sapori d'Italia. Adesso il CRM Notizie e poi ripartiremo sempre con la musica targata Slalom. Flashback. We'll be right back.

la simpatica rivelazione che proprio è stata fatta da Gianfranco Miccichè su Panorama, racconta della sua infanzia e del fatto che papà preferiva i bravi e lui sicuramente non lo era. Il suo prediletto era Gabriele, il fratello più piccolino, credo. Forse i trascorsi da femmina di casa avranno alimentato quindi la sua vocazione a fare da chioccio. Peccato che non sempre i pulcini abbiano ripagato le aspettative. Consigli commerciali e poi rientreremo sempre con una musica veramente firmata. Slalom. Flashback. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Torniamo a parlare di Angelino Alfano, che non toglie la freccia. Infatti, su una classifica stilata su Facebook sui politici, quindi presenti all'interno di questo social network, risulta essere primo posto Sonia Alfano, secondo posto Anna Finocchiaro e al terzo posto, scalando proprio costantemente questa classifica, è arrivato Angelina Alfano, che ha recuperato notevolmente su Rita Borsellino. Complimenti anche per Angelina Alfano, che in questi giorni sta riscuotendo enorme successo. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. It's my time, it's my life, I can do what I like. For the price of a smile, I gotta take it to ride. So I keep living, cause it feels right, and it's so nice, and I'll do it all again this time. It's forever, it gets better, and I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. One, let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright, cause tonight we can fly. So we keep living, cause it feels right, and it's so nice, and I'll do it all again this time. It's forever. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Consider the best. I consider mediocre. Yeah. I want my bank accounts like Carter Slims or at least the Mini Oprah. Maybe just close your eyes and imagine any part in the world I've been there. I'm like global warming, they think I just started heating things up. But I've been here. I time travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias, translation. Enrique Church's confession on. Questo è veramente divertente. Abbiamo trovato un'intervista rilasciata da Diego Cammarata, sindaco di Palermo, dove dice: sono estremamente soddisfatto della passione e dell'amore che ho messo nell'amministrare questa città di Palermo. Ho avuto 5 anni di crescita e di risultati straordinari, e questo è sotto gli occhi di tutti. È stato un quinquennio di sofferenza dovuto a una crisi internazionale che non può essere combattuta con i mezzi della politica comunale. Infatti negli ultimi, lui punta il dito sul fatto che negli ultimi 5 anni ha avuto circa 100 milioni di euro in meno, e che c'è stata una instabilità politica di un consiglio comunale che è stato in particolarmente governato dal centro-sinistra. Nonostante questo andiamo, abbiamo avuto delle, abbiamo, siamo cresciuti, abbiamo dimostrato che le nostre attività sono andate bene. Boh. We found love. Salutiamo Daniela che ci ha richiesto questa bellissima canzone di Rihanna. Io volevo precisare una cosa, essendo io cittadino di Palermo, non so dove Diego Camerata abbia preso queste bugie, perché materialmente, se noi facciamo un giro in città, ci accorgiamo che comunque non è come lui sostiene, che c'è stata una politica di crescita all'interno del comune di Palermo. Anzi, io penso che è successo tutt'altra cosa. Però per par condition poi parleremo anche di Raffaele Lombardo, che anche lui, diciamo, abbiamo una cosina che abbiamo trovato su internet che non è niente male. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Questa frase che si trova su internet proprio di Kylie Minogue, dove scrive: la vita non è un filo diritto, ci sono curve alte e basse, cose più interessanti e cose meno, basta solo sorridere alla vita e amare la gente più che si può. È stata rilasciata in occasione della sua dichiarazione della lotta che ha vinto contro un tumore. Noi continuiamo adesso, consigli commerciali, poi rientreremo in studio e parleremo di quella simpatica notizia che già vi avevamo anticipato, parlando proprio del nostro presidente della regione. Questa è CRM Happy Radio, questa è Slalo, una trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13 con Francesco Puglisi. 0921 92 32 92 335 56 37 251, il nostro sito internet è www.crmhappyradio.it. All'interno troverete anche l'icona che vi porta direttamente sul nostro spazio Facebook e lì potete interagire. Vendesi appartamento Quattro Vani in pianissimo centro a Palermo, zona Piazza Pretoria 4 Canti. Per chi volesse dell'informazione può chiamare al 338 21 19 112. Zucchero, Chocaback. Noi faremo l'amore, tre nel cielo e due nel sole. Noi faremo l'amore dentro il mare, dentro il pane. Nella bocca e negli occhi far l'amore. Sapete che la regione Sicilia ha un magazine che si intitola Terra e questa volta è stato allegato al Sole 24 Ore. E in questa intervista, dove viene descritto praticamente il presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo, in una intervista quasi antica, lui vestito in camicia a scacchi, circondato dalla natura in questa villa di Ramacca, insieme ai suoi cuccioli, insieme ai suoi cani Cirneca, ai suoi puro sangue. Lui parla del più e del meno, sottolineando il fatto che comunque questa intervista viene pagata con i soldi nostri della regione, visto che esce col sole 24 ore, sole 24 ore si fa pagare. Musica ancora italiana. Lampioni e portici, è andata così. Piccola istrice, dagli occhi bui, quel bacio alcolico, rossetto è guai, è stato facile, non lo è stato mai. Noi, veramente divertente questa intervista, abbiamo preso due spunti, uno è questo, ve lo devo leggere perché veramente è profondo il nostro presidente della regione. I politici non si dominano, non si domano col tempo, sono scatenati perché la loro vita è collegata ai partiti nazionali e ai padroni da cui dipendono. Proprio queste sono parole del presidente Raffaele Lombardo sulla pagina quindi di questa rivista legata al Sole 24 Ore che noi abbiamo pagato con i nostri soldi. Complimenti. Continuiamo ancora. Musica. Slalom. Viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Oh yeah, yeah. Oh yeah. I've been looking under rocks and breaking locks, just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac, 5 steps behind you. Tell them other girls they can hit the exit check, please, 'cause I finally found a girl of my dreams. Much more than a Grammy award, that's how much you mean to me. You could be my it girl, baby, you're the sh** girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. This is it, girl, give me 25 to life. I just wanna rock all night long and put you in the middle of my spotlight. You could be my it, girl. You're my biggest hit, girl. Let me play it loud. Let me play it loud, like. Let me play it loud. Let me play it loud, like.

quando noi parliamo la mattina che avremo degli ospiti, giustamente la gente vuole sapere quando arrivano. Ed è già pronto in linea il nostro primo ospite, il nostro caro amico Michele Sarrica. Ciao Michele e buongiorno innanzitutto. Carissimo Francesco, carissimi amici di Radio CRM e per radio, buongiorno a voi. Grazie. È un piacere sempre stare qui con voi, passare questi 10 minuti in vostra compagnia. Perfetto, credo che altrettante lo sia, perché abbiamo ricevuto un paio di domande. Addirittura? Sì. Sì, ci chiedono, ma il poeta deve essere un sognatore? Deve essere un sognatore. Beh, diciamo che messa così, su due piedi, ti posso dire che il poeta, come tutti gli uomini, deve essere un sognatore, certamente. Ci mancherebbe altro, se non avessimo sogni, gli uomini in generale, saremmo belli e fritti. Ma non mi riferisco a quei sogni comunque... sai, di vincite particolari, di incontri particolari. No, assolutamente. Parliamo proprio di quello che circonda la poesia. Bravissimo, perché i sogni dei poeti, deve sapere che hanno un fascino particolare. E poi una cosa molto bella è che sono interattivi, cioè tu puoi interagire con i loro sogni, perché sono sogni sociali, capisci? Non appartengono soltanto alla sfera del loro privato. In quanto non hanno questa connotazione egoistica, perché sai perché? Per una cosa molto importante, credo io, ma questo è nell'uomo, non dico soltanto nel poeta, perché quando sono veri i sogni si nutrono d'amore, ecco perché appartengono un po' a tutti e sono interattivi, perché nell'amore interagiamo un po' tutti. E il poeta deve avere questi sogni, l'uomo deve avere dei sogni. Beh, io credo che un po' tutti debbano avere un sogno, e comunque il sogno fa parte del meccanismo della nostra vita. Sì, sia sì. Che sia esso bello, che sia esso brutto. Che so, io ti racconto una cosa che può essere anche banale, cioè, ma credo che è successo a tutti, è successo a me, è successo, sicuramente sarà successo anche a te, sarà successo anche a qualche radioascoltatore. Ad esempio, scusate che sta... il classico sogno da incubo. Io ho sognato l'altro giorno, ad esempio, che ero con un amico mio che non vedo da tanto tempo, e all'improvviso questo si gettava fuori dalla finestra. Io la prima cosa che ho fatto l'indomani mattina quando mi sono svegliato è quello di averlo chiamato. Il minimo che potessi fare, molto bello, molto significativo comunque questo di qua. Cosa ti ha detto, scusa? No, che lui era fuori per una riunione di lavoro, però comunque stava bene, ringraziando il cielo. Non vorrei farci dell'ironia, ma se forse incontrando te si è talmente spaventato che si è buttato alla finestra. E pensare che tu non sei un brutto ragazzo. Ci no, speriamo che non faccia questo effetto alle donne, dico. Chissà, magari nel tuo subconscio c'è qualcosa che è rimasto inconcluso col tuo amico, adesso... un debito di riconoscenza, un altro tipo di debito, per cui questo amico tuo, appena ti ha visto, ricordandosene, ha preferito la morte, o quantomeno il tentato suicidio, buttandosi dalla finestra, non sappiamo da che piano, per evitare una mortificazione. Quindi magari tu gli dovevi un rimprovero, magari lui lo sapeva, chi lo sa? Cioè, non lo sappiamo. Comunque ogni sogno ha, diciamo, delle peculiarità che, se dovessimo indagare chi è capace di farlo, cioè, noi in maniera molto superficiale, così ci arroghiamo, tanto per trascorrere questi 10 minuti, ci arroghiamo questo diritto di poter, diciamo, un po' a scavare nel sogno che tu hai fatto. È un sogno molto bello, comunque, tutto sommato, è un sogno d'amicizia. Sì, sicuramente. Sembra perché completo il sogno, sì, cioè sì. Nel senso che praticamente poi passava un ragazzo che io chiedevo aiuto, perché comunque mi spaventavo, chiedendo aiuto, passava un ragazzo, lo mettevo in piedi ed era tutto a posto, come se non fosse successo nulla. Cioè hai chiesto aiuto tu? Sì, ho chiesto aiuto io e passava un ragazzo e lo ha messo in piedi ed è tutto. Ma ecco perché io poi chiamai subito questo amico mio, comunque, dai. Quindi molto bello anche questo, significativo, cioè che la conclusione, diciamo, di un vostro discorso che si è interrotto chissà quando, chissà dove, e per quale motivo, che magari adesso non ricordi, e che poi si è risolto bene, così è messo in piedi tutto il passato. Ho capito. Poi quindi, nella realtà ti sei informato tutto. Sì, bene, sì, tutto sì, sì. Ma la prima cosa che ho fatto ieri, rientrando fra le altre cose da Messina, dove sono stato per lavoro, è stato proprio questo, di chiamarlo per dire che è successo, stai bene, tutto bene. Però non gli ho raccontato. Vabbè, beh, questo. Chiaro, certo, cioè, certo. Allora, chissà se ti ascolta magari capirà che è lui. Sì, sì, credo sì. No, beh, gli amici miei un po' tutti mi ascoltano, mi seguono, mi allora, criticano, cioè, mi giudicano, mi puntano il dito, mi dicono un po' tante cose. Beh, è giusto, questo serve anche a crescere. Beh, hai degli amici sinceri che puntano il dito, certo, non in maniera così da arroganti, no, ci mancherebbe. No, diciamo che c'è uno scambio di idee, uno scambio, perfetto, di opinione. Sai, per alcuni aspetti la radio è molto cambiata, cioè nel senso che praticamente ci sono vocaboli che magari noi che facevamo la radio 30 anni fa, 20 anni fa, adesso non si adoperano più, c'è un modo di porsi totalmente, un linguaggio diverso. Ma cambia il linguaggio in generale, certo, sì, certo. Io l'altro giorno leggevo praticamente i compiti dei miei bambini e ti devo dire con estrema sincerità, se non ci fosse mia moglie che li segue in maniera proprio precisina e così via, io non so dove andrei a sbattere, cioè avrei delle difficoltà oggettive, cioè delle cose che ho dimenticato, che non so nemmeno io da dove iniziano, dove finiscono. Certe volte ti devo dire con estrema sincerità, mia moglie è all'ascolto e sicuramente si metterà a ridere quando lei alcune volte deve andare in riunione per incontrare gli insegnanti e così via. Io mi trovo con questo compito abbastanza arduo da seguire i bambini e ho delle difficoltà. Beh, perché sai, i programmi ormai sono cambiati, sono diversi. Io vivo con una professoressa in casa, mia moglie è professoressa di italiano, quindi vivo questa realtà. I programmi sono molto cambiati, sono diversi. E fortunatamente che c'è stato questo passo in avanti, anche se diciamo la scuola ha sempre un po' tarpate le ali, quindi non le si permette diciamo di svolazzare più di tanto, e quelli che ne subiscono le conseguenze poi sono i ragazzini, che sono più preparati di quanto noi possiamo immaginare. Veramente, hanno questo bisogno sì, soltanto di ricevere stimoli. Ormai la lezione, te l'ho detto l'altra volta, non so se ricordi ancora, abbiamo parlato, mi sembra, che i ragazzi hanno bisogno di qualcosa che li renda attivi, sì, non sì, che sì, siano sì, dei sì, passivi sì, a sfogliare. Io quando discuto di queste cose con mia moglie, che appunto fa parte della scuola, guarda, ho delle mie idee molto particolari e lei magari un po' giustamente viene mortificata. Beh, magari vede le cose totalmente diverse. No, perché no, lei, perché poi si rende conto che non abbiamo neanche i soldi per fare le fotocopie. Ecco. Quindi partiamo da questo presupposto. Quindi tu vuoi rivoluzionare il mondo della scuola con le tue idee, diciamo, se fossi ministro. Diciamo tra virgolette. E poi noi non abbiamo i soldi per le fotocopie. E quindi a questo punto tu cosa fai? Non puoi più ribattere, non puoi dire nulla, non puoi, quando tu hai dei bambini che hanno bisogno di sostegno, che hanno bisogno di certi aiuti e te lo tolgono, e sono bambini lasciati un po' così all'avventura, senza una possibilità di potersi migliorare quel pochino che loro è consentito e che secondo le insegnanti appropriate farebbero dei passi da giganti piuttosto che camminare come lumache dal punto di vista apprendimento. Ecco, la scuola è questa. Ritornando al fatto del sogno, ecco, anche questo è un sogno. Io sogno di vedere una scuola diversa. Io la vedo un po' platonica, un po' il classico insegnante con i suoi allievi che fa domande, facciano domande così all'improvviso, sparando anche a cavolate, così tra virgolette, che poi le cavolate nascondono delle verità importanti. Sì, questo è vero. Sì, sì, sì. Tutto, ne sono convinto tutto un mondo che fa parte del subconscio dei ragazzi. Mm-hmm. Oggi non hanno risposte. Non che non per mancanza, i professori sono preparati, fanno corsi, aggiornamenti, io lo vedo sempre sui libri, mia moglie guarda una cosa, però purtroppo non si dà loro l'opportunità di potersi esprimere in maniera adeguata. Perché comunque i tagli alle scuole sono notevoli. Poi magari, come abbiamo detto, ci sono delle spese inutili, come quella che abbiamo detto prima, cioè a proposito del nostro presidente della regione che ha rilasciato un'intervista su un magazine che è proprio della regione, allegata al Sole 24 Ore, quindi si è fatta pubblicità con i soldi nostri. Vabbè, comunque quella è un'altra storia. Lasciamo stare, sennò io divento polemico e quindi no, perché vedi, tra i nostri soldi poi andiamo avanti e così via. Tra i nostri soldi poi sia Michele, perché sennò poi io divento comincio a diventare nervoso, capito? Perché io cammino per strada, vedo tante cose che sono incomprensibili anche nell'essere spiegate, tante cose che non vanno, però purtroppo non si capisce perché ci sono così talmente tanti soldi che girano intorno a questi capocci politici e che poi il popolo di per se stesso non ottiene nulla, ecco. Difatti noi vediamo che malgrado la congiuntura, malgrado la crisi, malgrado l'inflazione, malgrado lo spread tra i nostri buone fruttifere eccetera eccetera con i tedeschi, è chiaro che comunque loro non si sono tolti, loro parlo di quelli che hanno i soldi, quelli grandi patrimoni, loro non si sono tolti una sola lira, non c'è stata fatta la patrimoniale, non si sono tolti una loro lira dagli stipendi di onorevoli, di ministri, di questa è la grande, noi abbiamo troppa gente che ci governa, e no, ma magari ci governasse bene, ma che prende soldi, che va a succhiare dall'economia nazionale, da quel famoso PIL che se tanto se ne parla, e che ecco questa è la situazione, quella è drammatica anche per questo motivo. Fino all'altro giorno sapevamo che tutto andava bene, che nessuno avrebbe mai messo le mani nei conti correnti, nei soldi, nelle tasche dei cittadini, e invece non è così. Non è stato così, ma allora loro se ne impipano. Ecco perché, tornando al discorso di il poeta sogna, come l'uomo, come te, quando cammini sogni che cosa? Di vedere una Sicilia diversa. È vero. Di vedere un mondo diverso, un uomo diverso. Vedere l'uomo soprattutto diverso. Dico questa battuta e poi iniziamo a parlare di poesia, perché abbiamo dei tempi stretti, abbiamo tanti ospiti oggi e così via. Io dico sempre una cosa, che noi uomini, tutti in generale, dal più piccolo al più grande, forse i piccoli lo stanno facendo adesso ancora in maniera particolare, dovremmo riprendere il libro dell'educazione civica e rileggerlo. Ma rileggerlo e capire quello che leggiamo, nel senso, e mettere in atto quello che leggiamo. Ecco, metto in atto, okay. Benissimo. Parliamo di poesia, Michele. Ma parliamo di poesia, va, abbiamo già parlato di poesia, la poesia è socializzazione, anche questa è poesia, sei partito dal sogno, quel poeta che sogna, ecco questo. Beh, sono partito io grazie a questa nostra amica che si chiama Valeria, che ci ha scritto proprio su Facebook dicendo proprio questa domanda, facendo questa domanda, il poeta è un sognatore, e quindi abbiamo dato, credo, una buona risposta. Sì, sono contento, che spero che Valeria comunque accetti la nostra risposta e comunque ne faccia anche lei, faccia parte di questa schiera di sognatori che vorrebbero una società diversa soprattutto. Perfetto, allora, cosa ci hai preparato per quest'oggi? Ma guarda, io penso sempre alla poesia, siccome ho scritto qualcosa anch'io su una slide, diciamo, su Facebook, l'ho pubblicata, uh-huh. E ho preso dei versi che di Baudelaire, che io ho un poeta che diciamo amo molto, uh-huh. Ti cito questi ultimi versi e poi magari ci salutiamo con questi, se ti fa piacere. Sì, certo. Cosa dice a proposito del poeta? Come il principe dei nembi è il poeta, che avvezzo alle tempeste ride dell'arciere, ma esiliato sulla terra fra scherni camminare non può per le sue ali di gigante. Cosa vuol dire Baudelaire in questa poesia, in queste ultime frasi dell'Albatros, una delle più belle poesie, secondo me, di Baudelaire? Che il poeta purtroppo si sente inadeguato a questa società. Questo uccello grande, con queste ali maestose, non può camminare, è goffo, come il poeta, è goffo, anche quando cammina. Quindi, io, se mi permetti... Ci sei, Francesco? Sì, come no, non è che vado via, non posso andare via, fino alle 13 sono qui. Spero di essere stato abbastanza esauriente alla tua domanda sul sogno dei poeti. Così, visto che la giornata è così bella, qui è cambiato il tempo, stamattina c'era una splendida giornata, ora si è un po' annuvolato, ecco, magari saranno gli ultimi spruzzi di pioggia di oggi. Ho fatto una passeggiatina con la mia cagnetta, che è una pincerina, a mare. Mezz'oretta fa. E guarda, c'è un mare stupendo, una giornata piacevolissima, e sono ottimista. Ho capito. E quindi ti saluto con questa poesia ti dico semplicemente che Lumunno è un'orchestra. Perfetto. Un okay. abbraccio. Poi ci sentiamo lunedì. Ok, ciao. Ciao. Stamattina spalanco la porta e lascio giacere le mosche. Stamattina, per una sana malattia della ragione, voglio sentire la vita mentre corre, mentre canta e abbannia, mentre grida e accompagna le caruse da una giorsa di sonnera e gelate. Voglio sentire voce di cortiglio e campane di festa e risate di angeli ruffiane da sti quattro panette di paese. Lumunno è un'orchestra che accompagna la vita e io, pescatore di note, voglio essere un tammuro che suona per lo tempo. Voglio fare parte di una banda che ogni mattina suona per parlare con Dio. Stamattina mi sento più caroso. Un augurio a tutti e buona giornata. Ciao Francesco, un abbraccio. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Tutta la tua finestra ci semina sti fiori e dopo cinque mesi garofani sbucciaro su tutti bianchi e rossi come la tua facciuzza beggia tu se ne puzza come le fiori tu ne puzza dolce ne puzza beggia donami donami na vasa terra amore mio, gioia dell'arma, nell'ume core, lo fuoco karma, sogno capace per te a soffrire, se tu non mami è meglio morire, se tu pezzito tu scegli a mia, io ti marito quando voto. Pace per te a soffrire, se tu non mami è meglio morire, se tu pezzito tu scegli a mia, io ti marito quando voto. E giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. È una

essere sempre più bella questa canzone di Roma is Joint. Noi continuiamo ancora con la musica. Questa è una richiesta e devo fare velocemente perché devo dire un sacco di nomi. Nomi: Bruno, Ornella, Francesca, Maya, Samuele, Gabriele, Gioacchino, Cristian e Marco fanno gli auguri a Martina per il suo onomastico. Hanno richiesto proprio questa canzone di Laura Pausini. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica. Chi non ha un segreto da sussurrare, ma una bugia da sciogliere, a chi non chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che oggi Montalbano, quindi in arte Luca Zingaretti, in arte Montalbano, però lui si chiama Zingaretti, compie gli anni, l'avevamo detto poc'anzi, e dopo aver conquistato comunque con il commissario Montalbano attraverso diciamo tutte quelle puntate che Mamma Rai ci ha proposto, adesso sbarca in Inghilterra. L'intera serie quindi sarà presente oltre Manica e spera sicuramente tutto il gruppo di Montalbano di fare presa nei cuori e soprattutto nell'attenzione dei sudditi della regina. In bocca al lupo per Montalbano e compagni. Consigli commerciali, poi ripartiremo con una canzone intitolata It's Wonderful, che è una bella canzone, però questa volta è la versione italiana. Cultura, arte e sapori. Al ristorante Il Berillo. I sapori antichi della cucina tipica del territorio madonita utilizzando prodotti selezionati e di prim'ordine. Al ristorante Il Berillo, menù degustazione a 19 euro. Squisita pizza tradizionale fatta con l'impiego di prodotti di qualità ad un prezzo modesto. L'ampia sala in stile rustico è ideale per cerimonie, feste e banchetti. E nel giardino e all'interno del locale aree giochi attrezzate per i più piccoli. Ristorante Pizzeria Il Berillo. Si trova a

È successa una cosa strana qui in Sicilia, non è che succedono solo altrove, anche qui in Sicilia. Mi fa venire in mente un vecchio film di Meg Ryan, quelle urla, quei gemiti che lei si trovava praticamente in un ristorante e una signora un po' più cicciottella disse alla cameriera: io vorrei quello che ha preso la signora qui accanto. Ed è successo, come stavo dicendo, a Mussomeli. Una coppia di coniugi in casa hanno scambiato le giuste effusioni d'amore, però forse un po' troppo pesanti, e hanno praticamente scaturito hanno fatto scaturire praticamente la chiamata ai carabinieri da parte dei vicini, perché pensavano che si trattasse di un litigio. Invece non è così, perché quando sono arrivati i carabinieri si sono accertati che quello non era un litigio, ma erano un'effusione d'amore. I coniugi si sono scusati e hanno detto che praticamente la prossima volta cercheranno di fare meno rumore. A cuore quindi non si comanda, a tutto il resto magari sì. Continuiamo ancora con la musica, salutiamo fra le altre cose i nostri cari amici e colleghi, i fratelli Brancato. Stasera c'è il classico appuntamento con Rock Revolution, saluto sia Simone che anche Filippo. Continuiamo ancora con la musica, questa è una musica di qualche anno fa, mi permettete qualche debolezza, Stevie Wonder. I've always come to the conclusion that bad is the way of asking for permission to lay something heavy on one's head. So I have tried to not be the one who fall into that line, but what I feel inside, I think you should know. And baby, that's you made life his story, 'cause you brought some joy inside my tears. You have done no one thought could be. You brought some joy inside my tears. I've always felt that tomorrow is for those who are too much afraid to go past yesterday and start living for today. I feel that lasting moments are coming, far and few between. So I should tell you of the happiness that you bring. Baby, baby, it's a you made life his story. Oh baby, you brought some joy inside my tears. You have done what no one thought could be. Yeah. You brought some joy inside my tears. Joy inside my tears. God bless you. 1976, quando veniva pubblicata questa canzone di Stevie Wonder, proprio inserita nell'album Song in the Key of Life. La canzone si intitola Joy Inside My Tears. Questa è CRM, Happy Radio, e questa è Slalom, la trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13. Continuiamo, questa è una notizia che io dico abbastanza curiosa, infatti è stata pubblicata su un quotidiano regionale ed è anche divertente. E nella parte dedicata alle cronologie diceva così: ve lo avevo detto che io mi sentivo male. Condoglianze e complimenti veramente per lo stile. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Than any pearl, your love so complete, Liberian girl. was in a scene. And she says, do you love me? And he says so in his sleep, I love you, Liberian girl. Nakupenda pia, nakutaka pia, penzi. Abbiamo sempre commentato che le notizie più strane arrivano dall'Inghilterra e dall'America, ma questa che vi stiamo per dare è una notizia che arriva dalla città di Palermo, quindi a due passi da Cefalù, e che veramente rasenta l'inverosimile. Pensate quell'ambiente classico del mitico capolavoro di De Sica, il Lago di Bicicletta, è successo a Palermo. Infatti un ladro, vedendo una bella bici attaccata a un platano alto di 4 metri con una bella robusta catena, ha pensato bene di rubare. Ma cosa ha fatto? Ha fatto altro che segare praticamente l'albero. Il tutto è avvenuto a regola d'arte, perché il ladro non ha commesso nessun danno a macchine parcheggiate. Infatti l'albero è caduto sul marciapiede senza danneggiare le auto in sosta. Noi dobbiamo fare obiettivamente, sinceramente, i complimenti al ladro, anche se dobbiamo essere buoni, queste cose non si fanno. Ancora musica. Senti che bel sogno che ho fatto, era ancora vivo il mio gatto, mamma aveva fatto la spesa, io sul mio divano ero stesa, nel mio sogno ho visto mio padre, aveva una valigia da fare sul letto, mentre la riempiva diceva gioia. Forse questo è l'ultimo viaggio. Io che solo adesso ho capito quanto poco c'era da fare, nel mio sogno avevo picchiato di brutto la donna per cui se ne andato mio padre. E la vita mi parla in sogno. E la vita mi parla così. Io che mia madre non ho mai visto piangere. Io che mia madre non ho mai visto piangere, piangere. Soli. E il mio sogno non è finito, io in quel pomeriggio morivo, ho chiamato Marta piangendo, sono andata a piedi da lì. soli. Allora, siamo in diretta con il nostro buon padre Angiolino, che anche oggi ci parlerà della liturgia della parola di domenica. Buongiorno padre Angiolino. Buongiorno a voi. Come stai innanzitutto? Meglio, grazie. Ok, allora, cosa dice la parola della la liturgia della parola di domenica? Poi ti faccio una domanda che è un po' diversa da quella che potrebbe sembrare parlando della liturgia. Esatto, si tratta della parabola dei talenti, una parabola molto conosciuta. In pratica è una parabola che si rivolge contro la paura nei confronti di Dio, perché la paura rende la vita sterile, perché l'ultimo servo, quello che ha ricevuto un solo talento, non ha capito che il padrone, affidandogli il talento, vuole fare di lui un amico, e che quel talento è un dono di comunione, è un atto di fiducia. Questo il servo non l'ha capito, perché su tutto incombe la paura del castigo. Il dono passa da un'opportunità e si trasforma in un incubo, cioè il servo ha paura di Dio. Ho capito. Ne ha un'immagine orribile, dice: tu sei duro, tu mieti dove non hai seminato. È un errore fatale questo, cioè si sbaglia su Dio e quindi si sbaglia anche la vita. Invece che divenire un amico di Dio, diventa schiavo della paura. Mm-hmm. Invece il Signore gli dà la possibilità di fare qualcosa per gli altri. Ed ecco che l'altra parte della parabola possiamo anche descrivere come il poema della creatività. Cioè il Signore dà dei talenti, ma questi talenti devono essere in funzione degli altri, messi a disposizione di chi ci sta accanto. Il Signore ci dà la natura e i nostri talenti devono fare in modo che questa natura sia sempre migliorata e non distrutta. Ci dà accanto anche una persona. Ecco, noi siamo il talento per l'altro, l'altro è il talento per noi, cioè ci aiuta a comprendere che ognuno ha qualcosa da donare all'altro e l'altro ha qualcosa da donare a noi. Se non c'è questa concezione, si vive da solo, perché nessuno è senza talenti. Anche chi magari sta in una carrozzella e è ammalato, può essere un dono per chi lo va a visitare, non può fare granché, ma quella serenità, quel sorriso, ecco, diventa un dono che tante volte è più importante delle parole. E quindi possiamo dire che io sono un talento per te, come marito potrebbe dire io sono un talento per te alla moglie e viceversa, i genitori nei confronti dei figli. Ecco, se tu hai il mio talento, e cosa vuol dire? Vuol dire che l'altro deve far emergere qualcosa che mi aiuta. E non mi fa stare solo, ma mi fa migliorare nella mia vita quotidiana. Ecco. Ho capito. Padre Angelino, io volevo... tu hai completato? Sì, sì. Allora, io volevo chiederti una cosa. Spesso ci accorgiamo che le persone arrivano un attimino in ritardo alla funzione della Santa Messa. Sì. Mi chiedo sempre una cosa, che può essere anche banale. Però se dobbiamo andare al cinema, abbiamo un appuntamento con una cerimonia particolare, noi siamo puntualissimi. Certo. Perché l'appuntamento con la Santa Messa non lo siamo? È perché o quantomeno, tu da sacerdote senti un pochettino di fastidio, senti un qualcosa, è come ad esempio io che vado a lavorare e se c'ho il cliente che mi tratta male o che mi dà delle cattive cose o un strano comportamento, non ci rimango bene. Certo. Sicuramente lo condivido, però non ci rimango bene. Tu da sacerdote, nel momento in cui vedi arrivare a messa inoltrata tante persone e così via, cosa provi? Provo che uno viene soltanto per assolvere a un precetto e non tanto per fare un'esperienza di preghiera o un incontro con il Signore. Cioè, se manca l'amore si fa soltanto per assolvere a una regola della Chiesa, non tanto perché è mosso dall'amore, dall'entusiasmo. Se uno è tifoso di una squadra di calcio, ecco, va allo stadio anche se piove, se c'è vento, sì, se c'è freddo, se c'è caldo, cioè l'amore per la squadra fa superare ogni difficoltà. Si vede che l'amore per il Signore è così debole che tante volte ci lasciamo prendere da altre cose e sì, lo mettiamo da parte. E quindi, però dico, dovremmo essere un po' tutti quanti consapevoli che l'appuntamento con Dio deve essere un appuntamento importante della D'accordo. Nostra vita. Bene. Padre Angelino, io ti auguro tante belle cose. Noi ci risentiremo comunque venerdì prossimo, se il buon Dio lo vorrà. D'accordo. Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie sempre della tua disponibilità. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Oh, Big Long, la canzone abbiamo sentito di Robert Plant, una canzone veramente di qualche anno fa. Alcuni diventano cuochi per caso, altri perché comunque il lavoro che tira, e per restare disoccupati ce ne vuole pochissimi, lo fanno per vocazione. Ma noi abbiamo trovato il cuoco che lo fa per vocazione, Alessandro Orefice. Ciao Alessandro! Buongiorno a tutti! Come ti è sembrata questa presentazione? Una bellissima presentazione, hai azzeccato in pieno in quella che è la spiegazione dei cuochi per caso. Molti purtroppo oggi si cimentano cuochi e per un po' per arrotondare... Per sbarcare il lunario magari. Sì, diciamo che ci sono tante persone che comunque nonostante abbiano per carità tanto talento, tanta buona disposizione a svolgere questo tipo di attività, non sempre ecco riescono ad avere risultati che comunque si possono riscontrare con anni di esperienza. Tutto qui. Ok, senti Alessandro, volevo chiederti una cosa. Oggi ci hai preparato qualcosa di importante? Oggi abbiamo preparato un bellissimo primo piatto. Noi, visto che comunque ci sentiamo molto facilmente a quest'ora, è sempre un pretesto per dare un consiglio a tutti quelli che ci seguono da casa. Io consiglio sempre alle persone che ci seguono di appuntare carta le ricette e penna, è perché stiamo preparando qualcosina di carino che vi porterà comunque dei premi indovinando poi le ricette delle varie trasmissioni. Andiamo, sentiamo questa ricetta di oggi. E allora, oggi abbiamo preparato delle tagliatelle al ragù di tonno. È molto molto molto semplice da svolgere, basta soltanto tagliare del tonno a dadini e preparare un fondo con un battuto di aglio, menta, salvia e rosmarino. Faremo rosolare l'aglio con queste erbe aromatiche. Subito dopo andremo a mettere questi dadini di tonno, li faremo rosolare per bene e li andremo a bagnare con un bicchiere di brandy. Perché non usiamo il vino? Perché il tonno è un sapore così forte che comunque sì, ha bisogno di essere smorzato da una base alcolica che rimanga un po' permanente, quindi di conseguenza ricordi sempre quella profumazione di alcolico, ecco. Ho capito. Una volta fatta sfumare per bene, andremo a mettere un paio di cucchiai di concentrato di pomodoro. Allungheremo il tutto con 4-5 bicchieri d'acqua. La salsa ha bisogno di pochissima cottura, perché il tonno comunque è un prodotto ittico che necessita veramente di poca cottura, in quanto con una cottura un po' prolungata andrebbe a disfarsi, quindi per farlo rimanere così a tocchettini basterà una cottura massima di 15 minuti. Una volta portato a termine, a parte andremo a lessare dei piselli. Questi piselli logicamente possiamo anche utilizzare quelli surgelati senza nessun problema, li faremo cucinare appena per 5 minuti e io consiglio sempre di cucinarli a parte, perché se li andiamo ad integrare nel condimento o rimangono crudi o addirittura, a seconda della qualità del pisello che andiamo ad utilizzare, si vanno a disfare. Di conseguenza andremo ad incorporare gli stessi piselli nella salsa, lasceremo ancora un paio di minuti ad insaporirsi e poi andremo nuovamente a mettere della menta in foglie, in ovviamente grande quantità. Okay. A parte cucineremo le nostre tagliatelle, possibilmente potete anche utilizzare i nidi, quindi delle tagliatelle già essiccate, o se addirittura le potete fare fresche direttamente. La base è semplicissima, dovete considerare che per ogni 100 g di farina basterà un uovo, una piccola presa di sale, andremo ad impastare o a mano o all'interno di un robottino. Stenderemo la pasta eventualmente con un mattarello e la taglieremo. La possiamo anche fare a modi mal tagliati, quindi di conseguenza non deve essere per forza un taglio regolare, ma anche così capriccioso. Si possono fare dei rombi che verranno comunque cucinati, o le tagliatelle o i mal tagliati in acqua salata, verranno scolati, integrati nella salsa, li andremo a spadellare ancora per un minuto all'incirca e poi andremo a servire in un bellissimo piatto con una bella guarnizione di menta e una grattugiata di scorzetta d'arancia, molto importante perché renderà questo piatto veramente unico. Io non ti dico qui quello che stanno facendo dall'altra parte del vetro i tecnici e l'aiuto regista, si stanno leccando. Mi sa tanto che dovremo impiantare lì in radio una cucina volante sicuramente. E faremo anche una sorta di di dimostrazione audiovisiva a questo punto. È vero. Allora, senti Alessandro, io in questi giorni che noi ci siamo sentiti telefonicamente ho potuto veramente sentire in te quella passione, e questa passione tu la trasmetti anche con queste ricette. Bene. Io ti faccio i complimenti. Ricordo infinite. Sempre che questi piatti potete gustare all'interno dell'antica focacceria San Francesco che è a Palermo, sì. E quindi se andate a nome nostro sarete ancora più coccolati dal nostro Alessandro, senza dubbio. Okay. Devono venire a nome tuo, che sei una persona così graziosa, così simpatica, che è sempre un piacere avere a che fare con che te. Che bella sviolinata. Ma dice l'amico nostro Paolo, ci devi offrire il pranzo qualche giorno. Va bene, non è un problema. Non sarà assolutamente un problema. Ciao Alessandro, buona vita. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Allora, un rumeno di 53 anni è stato convocato in caserma a Messina dalla polizia perché è destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, ma è stato denunciato perché si è presentato quest'ultimo in sedia a rotelle rubata. Quando l'hanno visto arrivare, i poliziotti hanno chiesto all'uomo se avesse problemi di movimento, di deambulazione, ma quest'ultimo ha detto di essere in perfette condizioni, di utilizzare la sedia solo per essere più abile nei movimenti. Gli agenti quindi si sono insospettiti e hanno fatto delle ricerche ed è risultato che quella sedia a rotelle era stata rubata qualche giorno prima all'ospedale Piemonte, sempre di Messina, e quindi lo hanno denunciato per ricettazione. Ma non doveva essere denunciato per ricettazione, gli dovevano veramente dovevano arrestarlo, perché queste sono delle cose che sinceramente non si fanno. È stato certo facile tornare qui da te. Avrei voluto scappare lontano, ma molto lontano, e non chiederti se, se l'ultima volta che hai rubato il giorno al mondo era per me. piangevi di me. Se poi mi lasciavo cadere, non mi accorgevo di te, che mai mi venivi a salvare. Accorgevi di me, se poi ti venivo a cercare, non mi accorgevo di te, che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me, perché già sapevi che io, se mi curavo di te, a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare. Proprio adesso che voglio soltanto morire. Su quelle tue labbra c'è ancora posto per me. E come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me, sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te. Nelle tue mani insistenti avrò cura di te. Ora che io so sentirti, avrai cura di me. Può sembrare strano, ma non è così. Fino a qualche tempo fa l'isola Sicilia quindi poteva vantare delle sue resaie. Ora ne parliamo di questo articolo che abbiamo trovato in giro, perché proprio c'è uno chef che sta facendo del riso il suo core business. Vi ricordo sempre dell'appartamento che si vende a Palermo, è un quattrovani, cioè sono 120 metri quadri, in pienissimo centro storico, su piazza Pretoria, quattro canti, e quindi un primo piano con lungo balcone su Corso Vittorio Emanuele, in un palazzo d'epoca, totalmente da ristrutturare, rientranti nei piani di finanziamento regionale pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia numero 14 del 1 aprile 2011. Consigli commerciali e poi rientreremo in studio con la musica firmata CRM e parleremo di questa di quest'articolo che è proprio basato. A feather in the wind. lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh yes, all of my love to you now. L'occasione è sicuramente giusta, quella per ricordarvi l'appuntamento con Rock Revolution a partire dal 21 su CRM Piradio con i nostri bravi Rock Brothers, i nostri Simone e Filippo Brancato, che saluto affettuosamente. Allora, come già detto prima della canzone dei Led Zeppelin, All My Love, il riso era anche coltivato qui in Sicilia. Sembrerebbe una cosa strana, perché magari per il periodo di caldo che abbiamo, e quindi del periodo di siccità, sembrerebbe che questa regione non potrebbe produrre riso. Invece, facendo una ricerca antica, si è trovato in alcuni libri che comunque il riso veniva prodotto qui in Sicilia, e che la qualità di questo riso non era poi delle più brutte, anzi era un riso piuttosto particolare. L'idea è venuto ad uno chef ed è stato anche coadiuvato da un agronomo, Angelo Manna di Leonforte, che in collaborazione con la Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Catania hanno impiantato nei mesi scorsi una piccola piantagione di riso, e la qualità del riso sembra che non sia niente male. Complimenti per questo agronomo, e complimenti soprattutto a tutti questi giovani che hanno queste grandi risorse all'interno di loro. E noi continuiamo con la musica. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Vi ricordo che questa è CRM Happy Radio e questa è la radio che voi preferite. Lui è Max Pezzali. La canzone che sentite già in sottofondo è quella che in questi giorni ci accompagna, perché è richiestissima anche al nostro numero telefonico, ed è quello che comunemente noi chiamiamo amore. Vi ricordo anche gli altri appuntamenti a seguire: Sparalottando con Renata Guerrieri, poi c'è On the Road con il nostro caro amico Antonio, poi c'è Toc Toc, Freestyle e poi Rock Revolution. Continuiamo a seguire questa radio, perché è la vostra radio. E poi pensate un po', questa è una chicca che ho scoperto da pochissimo: è la prima radio in provincia di Palermo, pensate, è nata il 18 gennaio del 1977. Dobbiamo andarne fieri. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere significa I'll always be with you. Don't care, we can all see the truth. But there's one thing I have to say. Don't worry about yesterday. Yes, I'll be your man, you better understand. And I promise that my love you can't forget. Cause hey, this is my time. Love will never die, yeah. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. E se fosse l'unico motivo che c'è, il significato ultimo per cui vivere fino in fondo il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo. Max Pezzali con questa bella canzone intitolata Quella che comunemente noi chiamiamo amore. Vi ricordo che sabato 12 novembre 2011 alle ore 21 presso la libreria Paolini, di rimpetto la cattedrale di Palermo, ci sarà la presentazione del libro Dovunque dentro di Pietro Gullo. La presentazione di questo libro verrà fatta da Fernanda Di Monte, giornalista, e ci sarà la lettura dei testi con Paolo Gendusa e Tamara Maiocco. Sarà presente comunque l'autore. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Missed. Felt the fire when you came. Didn't you feel the same? Oggi è venerdì 11 novembre 2011 e il nostro bel appuntamento che aspettate un po' tutti quanti è con il nostro caro amico Giulio Gianlombardo, che ci parlerà di questo fine settimana e di cosa dobbiamo preparare in valigia, dove dobbiamo andare. Ciao Giulio e bentrovato. Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, cosa hai preparato? Io ho visto l'altro giorno smanettando il computer nel tuo sito Sicilia Weekend, che invito anzi i radioascoltatori a navigare all'interno di questo sito perché e a registrarsi, perché è veramente delizioso, dà degli spunti interessanti, ma soprattutto dà l'opportunità di conoscere ancora di più la nostra terra. Io sono tifoso della Sicilia comunque. Esatto, sì, ma anche noi siamo tifosi, come dici tu, della Sicilia, e proprio per questo amiamo suggerire sempre posti nuovi ai nostri lettori e invogliarli, diciamo così, a scoprire i tesori nascosti della Sicilia. E questa settimana ha proprio un evento curioso, particolare, si svolgerà a Castellumberto, che è un piccolo paese in provincia di Messina. Conosco sopra Capodorrando, fra le altre cose. Esattamente. Sono quasi 22 chilometri di curve, però è un posto delizioso. Anche se ci sono queste curve, il paesino presta alla visita. Sì, è un paesino molto bello, vicoli molto suggestivi, vecchie case in pietra arenaria, scorci fioriti e anche i ruderi di un bel castello di epoca bizantina. Ma al di là di questo, chiaramente potrete comunque andare a visitare, la particolarità di questo fine settimana consiste nel Palio delle Botti, che si svolgerà proprio a Castellumberto. Domenica ci sarà una particolare gara di botti, quindi non i botti di legnate, no? No, botti di legno, sì, per il vino. Una batturazza, va. Ci sono i festeggiamenti dedicati a San Martino sabato e domenica, per cui in paese si festeggerà poi domenica pomeriggio con questa gara, dove i partecipanti spingeranno questi contenitori di legno, le botti di legno, affrontando dossi, curve, altre difficoltà lungo il percorso, e poi alla fine ci sarà un bel brindisi conclusivo per il vincitore. Okay. Riguardo invece l'appuntamento con l'ambiente e con la natura, gli amici della cooperativa Artemisia di Palermo propongono una interessante escursione domenica 13 novembre nel bosco di Scorace, che si trova tra Bruca e Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Parliamo dell'area verde più estesa della provincia di Trapani. E quindi, dopo aver passeggiato in mezzo a sugheri, corbezzoli e altro, ci si fermerà per un bel pranzo a sacco e dopo, nel primo pomeriggio, si farà un tuffo nelle acque calde di Segesta. Ah, veramente. Diciamo che la temperatura lo permette, insomma. Indubbiamente. Allora, veramente, io credo che questi tuoi consigli sono sempre ben accetti, sia da parte mia che da parte dei radioascoltatori di CRM. Me lo auguro. No, io credo che comunque quello che si fa con passione, si fa con attenzione, si fa soprattutto perché noi, che amiamo la nostra bella terra di Sicilia, trasmettiamo questo amore per questa terra, e credo che i radioascoltatori possono accettare questi giusti consigli che voi date. Benissimo, ne approfitto per un'ultima piccola segnalazione in merito a un'iniziativa che stiamo organizzando. Presto daremo il via al nuovo concorso Sicilia Matic. Cos'è? Non è altro che una mostra fotografica che si terrà a gennaio presso la Feltrinelli di Palermo. Infatti il concorso è organizzato in collaborazione con la Feltrinelli, cui invitiamo i lettori a fotografare con la nota applicazione dell'iPhone Instamatic tutti gli scorci di Sicilia, sempre legati a cultura, natura e cibo, inviarli direttamente a Feltrinelli, i migliori saranno selezionati ed esposti in una mostra che si terrà a gennaio, appunto, come abbiamo detto, da Feltrinelli, però sempre con lo stile Instamatic, quindi queste foto che ricordano un po' le vecchie Polaroid, non so se sei presente. Sì, presente, benissimo. E quindi praticamente questa è un'iniziativa libera, chiaramente, alla quale possono partecipare tutti i nostri lettori. Il regolamento, il bando, ecco, è scaricabile tu dal sito www.siciliaweekend.info. Perfetto, quindi è un'occasione in più per partecipare e per far sì che si colgano le più belle immagini della nostra terra. Esattamente. Ok Giulio, il nostro appuntamento è per venerdì prossimo, ti auguro buona vita e buon lavoro comunque. Grazie Francesco, buon fine settimana a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao Giulio, ciao. A presto.